L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale resteremo ancorati all'idea di Expo, ma per svilupparlo in ambiti diversi, perché non c'è solo l'Expo di Milano, ma ci sono anche le collaterali di Expo. Una di queste è già stata da noi presentata in questa trasmissione, è a Venezia, si chiama Acque Venezia 2015, ma parleremo anche di energie rinnovabili, di quello che accadrà nei prossimi giorni a Varese Ligure. Cominciamo però dall'acqua, torna a essere nostra ospite, ne sono molto lieta, Gabriella Chiellino, che è presidente di E-Ambiente Group e coordinatrice scientifica di Pianeta Acqua, che sta seguendo appunto e organizzando quello che accade ad Acque Venezia 2015, collaterale ufficiale dell'Expo di Milano, che si tiene a Marghera, nella quale vengono declinati tutti i temi che hanno a che fare sì con la nutrizione, l'alimentazione, ma principalmente dall'ottica della risorsa idrica. Ben ritrovata a Gabriella Chiellino. Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito per parlare di questo progetto sull'acqua. È un progetto molto interessante e che noi vogliamo seguire per quanto riusciamo, insomma, con i nostri appuntamenti settimanali. E facciamo un po' il punto di questo, non è il primo mese, ma ci avviamo ormai verso il primo mese, facciamo un po' il punto perché avete cominciato ovviamente le discussioni, gli incontri. So che molta attenzione è stata dedicata al tema dell'economia circolare, appunto dell'acqua. Ne parliamo sempre per quel che riguarda altre produzioni, ne parliamo sempre per i rifiuti. In realtà un ragionamento simile si può fare anche per l'acqua. Io ti chiedo qui di illustrarci un po' qual è stata la discussione. Sì, assolutamente. Allora, riprendendo il concetto poi di economia circolare, che è proprio il take, make e waste, noi appunto prendiamo l'acqua pensando che sia appunto questa risorsa infinita, la processiamo e poi la scarichiamo e chissà dove va. In realtà il World Economic Forum a livello mondiale dice che la scarsità idrica e il tema appunto della mancanza d'acqua è uno dei rischi globali con il più alto grado di impatto. Per cui dobbiamo assolutamente concentrarci su questo, su questa economia circolare che riprende l'acqua come se fosse un prodotto e la ricircola. Come? Con un riuso. E quindi sono importantissime le tecnologie che permettono di depurare l'acqua sporca che esce come rifiuto e riutilizzarla. Ed in questo noi abbiamo aperto a maggio Expo Acque proprio per parlare delle tecnologie di estrazione di nutrienti dall'acqua sporca e per riutilizzarla nell'agricoltura e nei processi industriali ed evitare quindi di prendere acqua pulita, che in realtà magari in Italia non ne sentiamo la scarsità, ma in altri paesi al mondo è assolutamente uno dei primi problemi. Quindi tu hai già detto due possibilità, che è quella dell'estrazione di nutrienti e poi di un riutilizzo in alcuni specifici campi, l'agricoltura e poi diciamo quali altri. Estrazione di nutrienti per cosa? Per capire. Diciamo che l'acqua contaminata può essere ricca, anche quella fognaria che magari chi ci ascolta conosce molto bene, di nutrienti come l'azoto e composti organici che nei sistemi di depurazione possono essere estratti rilasciando acqua pulita che, rispettando i rischi alla salute, quindi tutti quei requisiti che fanno dell'acqua un prodotto riutilizzabile poi nell'agricoltura e anche nell'irrigazione in aree verdi o altro, e recuperare i nutrienti per farne uso in altri processi produttivivi. Questo significa non produrre questi nutrienti, ad esempio, se parliamo di agricoltura, ad esempio. Assolutamente, vuol dire creare questa economia circolare da cui l'acqua diventa una materia, un prodotto che anche quando è sporca diventa una risorsa che rientra in circolo, non solo come acqua nel senso comune, ma anche come prodotti chimici che possono essere riutilizzati in altri processi. Depurazione e riutilizzo. Allora, in Italia tante sono le esperienze che sono state fatte e pochi gli usi poi dopo quelli continuativi, no? se non sbaglio. Sì, diciamo che in Italia il problema è un po' la legislazione che ha messo delle restrizioni su queste potenzialità di riuso dell'acqua, anche se l'Italia a livello di tecnologie è molto presente. Ricordiamo i progetti internazionali che sta condividendo a livello europeo mondiale come il SAFIR o il CROP 4, che sono progetti in cui noi abbiamo delle tecnologie di depurazione e di riuso molto importanti, però non siamo il paese a maggior riuso. Oggi i paesi dove il recupero e il rientro dell'acqua sporca in altri usi è l'Australia, la Germania, l'India. Noi come Italia ancora siamo a progetti sperimentali, ma siamo indietro sul poter effettivamente chiudere il percorso di questa economia circolare dell'acqua. Eppure abbiamo grandi centri di ricerca. Io presente appunto al CNR, a lungo ha lavorato su questi temi, ha lavorato molto all'estero su questo anche, poi dopo, quindi abbiamo già una ricchezza da un punto di vista della ricerca, e mancano questi passaggi che poi consentirebbero questi passaggi reali che richiedono sia pressing legislativo e politico, sia anche i cittadini formati, perché un cittadino non deve pensare che se in agricoltura irrigo con acqua che ho recuperato da altri processi e depurata è sporca ancora. Per cui c'è un percorso, diciamo, sociale e un percorso strategico politico che spinga verso questa economia circolare. Sapendo, come dicevi bene tu, che tra università, CNR e l'Unione Bonifiche Nazionali, che è molto avanti, giusto, in questo, ci sono delle teste pensanti e che hanno già prodotto delle tecnologie innovative. Io credo che il cittadino possa essere anche semplicemente portato a riflettere su questo aspetto, cioè che ogni volta che, o quasi sempre, quando vediamo innaffiare le aiuole spartitraffico, stiamo utilizzando, sì, acqua potabile. Sì, ecco, già questa è una chiara follia, no? Quindi pensare a questo fa capire quanto può essere importante cambiare prospettiva e modi di lavorare. Abbiamo ancora qualche minuto e io direi di utilizzarlo per questa ricerca che è stata presentata proprio in questi ultimi giorni, che riguarda l'acqua e le conversazioni sull'acqua che sono state registrate o che si registrano in rete, perché questo già ci fa capire come stia cambiando fortunatamente qualcosa. Assolutamente, sono stati intercettate quasi 3 milioni di conversazioni nel mondo e la prima attenzione che i cittadini del mondo chiedono o discutono via rete è proprio legata all'acqua e al concetto di salute. Quindi c'è questa attenzione che l'acqua è visto come un bene da bere e quindi deve avere tutti i requisiti del caso, e siamo d'accordo. Poi però la seconda attenzione alle conversazioni in rete è proprio su la depurazione, quindi anche il monitoraggio dell'acqua. Questo vuol dire che c'è questa attenzione e questa sensibilità al riuso, ma che collegata alla salute sembra che rimanga il concetto dello sporco. In realtà la salute può essere benissimo protetta anche con una depurazione spinta, attenta, sia per l'economia della depurazione che per l'utilizzo dell'acqua. Grazie molte a Gabriella Chiellino ancora una volta per essere stata con noi. Ci ritroviamo, spero presto, in un'altra occasione. Assolutamente, vi ringrazio dell'invito e sono sempre a vostra disposizione. Un caro abbraccio e un saluto. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, di nuovo ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata dell'Altro Pianeta. Nella prima parte abbiamo parlato di Acque Venezia 2015 e adesso, come promesso, andiamo a Varese Ligure, dove si terrà il primo festival nazionale del biologico e delle buone energie, che verrà presentato la settimana prossima all'Expo di Milano. Quindi ecco il collegamento con l'Expo. È ovvio che i temi sono collegati all'esposizione universale del capoluogo lombardo, parliamo infatti di biologico, di buone energie, e abbiamo con noi Nicola Caprioni, che è presidente del Centro del Gusto. Caprioni, io le chiedo innanzitutto però di soddisfare la mia curiosità e probabilmente anche quella degli ascoltatori, cioè ci dica cos'è il Centro del Gusto. Certo, il Centro del Gusto è una APS, un'associazione senza scopo di lucro, nata in ambiente della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, con il compito di sviluppare, sostenere le politiche di crescita, di internazionalizzazione, commercializzazione, ricerca della qualità, formazione inerenti soprattutto al settore alimentare. Quindi il settore delle imprese che operano in campo alimentare o delle bevande. Mm. Quindi, detto questo, quello che accadrà a Varese Ligure dal 12 al 14 di giugno, il primo festival nazionale del biologico e delle buone energie, coniuga le attività del Centro del Gusto alle già abbastanza, direi, rinomate abilità di Varese Ligure nel campo delle rinnovabili. Siete riusciti a trovare un accordo, ecco, su questi due fronti? Siamo riusciti a trovare un accordo perché in realtà quando pensavamo di cosa era possibile fare nel periodo dell'Expo e in correlazione con l'Expo sul territorio, cioè per non ripetere iniziative solo all'interno, ma cercare di portare sul territorio qualche iniziativa, ci siamo imbattuti nel caso di Varese Ligure. Varese Ligure è noto a tutti, è stato il primo comune in tutta Europa a avere la certificazione ambientale di qualità, si distingue come Valle del Biologico, è stato il primo distretto italiano della produzione biologica alimentare, per queste produzioni vive praticamente di economia basata sulle produzioni alimentari biologiche, e l'altra caratteristica è un comune più che autosufficiente per la produzione energetica, produce oggi energia da fonti rinnovabili per quasi 12.000 abitanti, quando il comune ha 2.200 residenti, quindi ha sviluppato l'eolico, il fotovoltaico moltissimo, poi c'è qualche piccolo esempio di micro idroelettrico e altre iniziative in campo, quindi coniuga i due temi della sostenibilità alimentare da un lato, energetica dall'altro, quindi il richiamo era perfettamente in linea con la parola d'ordine dell'Expo, no, nutrire il pianeta, energia per la vita, e abbiamo deciso di farne un caso per portare questo esempio di buone pratiche sotto l'attenzione di tutti. Che mi sembra un'ottima idea, intanto perché l'Expo deve non solo concentrarsi su Milano, in realtà dovrebbe anche essere un'occasione per tutti per far vedere quello che si può fare in questi campi, quindi è anche bello allargare. Però nonostante tutto vi tocca da Varese Ligure spostarvi la settimana prossima a Milano per presentare quello che sarà il primo festival nazionale. L'appuntamento è il 26, giusto? Sì, il 26 al Padiglione Italia, dalle ore 11 alle ore 15 faremo una presentazione del primo Festival Nazionale del Biologico di Varese Ligure, quindi per la stampa e per i visitatori produrremo tutti i materiali e avremo occasione di incontrare e discutere, quindi una giornata dedicata proprio al festival. Il festival in sé invece è il 12-14 giugno, Varese Ligure forse va detto che è in provincia di La Spezia. Anzi, è l'ultimo comune della provincia di La Spezia nel senso geografico, perché esattamente a confine con la provincia di Genova da un lato e con la provincia di Parma dall'altro, di là dall'Appennino, insomma. Quindi è in una posizione seppur non facilmente raggiungibile, perché ha questa natura intatta, straordinaria, di straordinaria bellezza, insomma, con foreste, pascoli, eccetera, però è in una posizione molto, molto strategica, perché è di fatto a cavallo di tre province, insomma, è poi vicino ad altre, quindi può essere momento di attrazione e di coesione per un territorio più vasto, che è fondamentalmente Ligure, ma può essere Emiliano, Toscano, anche Lombardo, che non è lontano da lì, sono tutto sommato. Certo. Senta, perché negli anni, evidentemente c'è una certa predisposizione della popolazione a avere attenzione rispetto al proprio territorio, ma com'è che proprio lì si è sviluppato? C'è stato un qualche motivo? Il motivo è dato in primo luogo dalla collocazione, nel senso che quella che è stata nel passato una sfortuna dell'Alta Valdivara di Varese Ligure in modo particolare, che era la mancanza di comunicazioni, cioè di ferrovie, strade, autostrade, oggi è diventata una fortuna perché ha posto la zona al riparo da quel tipo di sviluppo contorto, di cementificazione del territorio, di inquinamento eccetera, che conosciamo purtroppo in altri territori del nostro paese. E la seconda cosa fu un sindaco illuminato che già a partire dagli anni Ottanta pensò, che si chiamava Caranza, pensò di fare una cosa importante. Il primo passo fu quello, come abbiamo detto, della certificazione ambientale di qualità. Fu iniziato inizio anni 90, la certificazione è arrivata nel 1999, quindi è stato il passo. Da lì in avanti si è costituito pian piano, prima sono partiti con il latte, i formaggi, la carne, e poi pian piano hanno aggiunto altri prodotti sempre sulla filiera biologica, e poi si hanno sviluppato tutto il settore delle energie rinnovabili. Questo ha avuto, diciamo, un impatto positivo sulla popolazione? Parliamo spesso di spopolamento, di abbandono, ecco, è riuscito a trattenere gli abitanti? A frenare l'esodo, a differenza di altri comuni in situazioni analoghe. Insomma, per chi conosce l'entroterra Ligure, la Liguria è conosciuta soprattutto per essere una regione di mare, no, fondamentalmente. Pochi conoscono l'entroterra, è anche la regione più verde d'Italia perché ha la più alta superficie di territorio coperto da boschi, per la verità, però i comuni tendono a spopolare. Il Varese ha perso un po' di abitanti, ma tutto sommato è riuscita a tenere, e adesso c'è un fenomeno, per esempio, di giovani che stanno creando imprese, stanno provando a mettere su realtà, e anche un fenomeno di molte persone, soprattutto tedeschi, olandesi, insomma cittadini del nord Europa, che acquistano anche case abbandonate, le ristrutturano, insomma, dato che amano molto il contatto con la natura, poi coniugato al buon clima della Riviera Ligure, diventa un motivo di attrazione anche di investimento di cittadini che vogliono vivere in un ambiente diverso da quello in cui sono stati per molti anni. Quindi insomma sono sia locali che forestieri, sia italiani, diciamo così, che forestieri. Sì, che sono arrivano anche esempi molto belli di cittadini non italiani che sono venuti e hanno creato delle attività, per esempio in campo agricolo, in campo di trasformazione dei prodotti. Il fatto che ci sia stata fatta una scelta così improntata al biologico piace di più agli stranieri forse che agli italiani? Diciamo che soprattutto nel nord Europa, paesi a cui ci troviamo, c'è una tensione molto più forte di quanta non si trovi in Italia sulle produzioni biologiche, naturali, sulla tensione a prodotti chimici negli alimenti, conservanti, insetticidi, insomma tutto l'utilizzo della chimica che poi noi ci mangiamo regolarmente. Devo dire che anche in Italia sta crescendo molto, nel senso che i dati di mercato ci dicono che mentre il biologico ha avuto negli ultimi anni, nonostante la crisi economica, una crescita straordinaria dei volumi di vendita, mentre il mercato anche del settore alimentare stava calando. Quindi è sicuramente un settore ancora di nicchia, ma è sicuramente un settore in forte crescita economica e anche in forte crescita per quanto riguarda le esportazioni. Possiamo così descrivere un po' agli ascoltatori quello che troveranno venendo lì nei giorni del festival? Ovviamente possono venire all'Expo, lo ricordiamo, il 26 maggio per sentire la presentazione, ma poi il festival è a giugno. Io credo che troveranno una cosa molto bella, nel senso che se io fossi una persona che viene da fuori, la prenderei come una bellissima gita in campagna, un territorio veramente bello, incontaminato, in mezzo al verde, con queste foreste, pascoli, acque pulite, un bellissimo centro storico dominato dal Castello Fieschi, è un gioiellino, no? Questo borgo rotondo, antico, che è da visitare. Soprattutto ci sarà il festival, che ha un aspetto commerciale espositivo, nel senso che ci sono un centinaio di stand che propongono o prodotti alimentari biologici oppure stand che propongono energie alternative, quindi sistemi per il risparmio energetico, nuove tipologie costruttive, fotovoltaico, solare termico, sonde geotermiche, paleoliche, insomma tutto ciò che fa parte di questo immenso settore del risparmio energetico e delle energie alternative. Ma avremo anche una serie di conversazioni col pubblico, abbiamo allestito due sale in contemporanea, a ciclo continuo ci sono 16 presentazioni di prodotti alimentari con testing e assaggi da un lato e altrettante presentazioni proprio su consigli pratici di cosa fare in casa propria per spendere meno e inquinare meno nel consumo di riscaldamento, di energia elettrica, eccetera, fatto da tecnici specializzati. Quindi avremo poi una dimostrazione di una costruzione di una biocasa in legno, che è una cosina molto interessante, sarà costruita e poi vabbè, spuntata alla fine della fiera, potremo vedere come si fa. Avremo una serie di dimostrazioni anche di attività di show cooking, abbiamo tutte le sere degli spettacoli molto interessanti, c'è un'area spettacoli, c'è intrattenimento per i bambini, ci sono menù biologici in tutti i ristoranti, gli agriturismi della zona. L'obiettivo è quello di diffondere, l'obiettivo vero è quello di diffondere sempre più una cultura di attenzione all'ambiente da tutti i punti di vista. Noi abbiamo scelto questi due che ci sembrano quelli principali, che sono quello alimentare e quello energetico, ma ovviamente la cultura ambientale è una cultura complessa. Dal 12 al 14 giugno a Varese Ligure, io la ringrazio Nicola Caprioni, presidente del Centro del Gusto, per essere stato con noi in questa puntata. Grazie, arrivederci. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.